paura di restare solo, di essere in corso preso a colpi di pietra, di saltar nel fuoco. Qui nessuno ha paura di restare indietro, nel tobogan scivolar via di schiena su piedi di vetro. Qui nessuno ha paura di morire presto, si siede al banco e poi si va in silenzio senza mai contare il resto. Fango nelle mani, dormir per terra come cani, pioggia nei pensieri, scrosci di noi e tutto è come ieri. Qui nessuno ha paura di restare al buio, si sceglie a caso fra tante finte porte che danno nel vuoto. Qui nessuna fortuna, tanto più il decoro di uscire all'alba senza bugia o ragione, senza mai.